Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Basso rischio di diffusione da bambino a bambino e rara la trasmissione da bambino ad adulto, è quanto suggerisce uno studio di Wiedi dell'Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici, pubblicato su JAMA Pediatric. Lo commentiamo insieme alla professoressa Susanna Esposito, presidente Wiedi ed ordinario di pediatria all'Università di Parma. Nella nostra ricerca abbiamo visto quelli che sono i dati pediatrici pubblicati nella letteratura scientifica e quello che emerge è come il SARS-CoV-2 faccia fatica nei primi 6 anni di vita a entrare nelle cellule e replicarsi per la bassa espressione dei recettori ACE2, e quello che si è osservato in tutti gli studi disponibili è che la trasmissione avvenga prevalentemente dal nucleo familiare ai bambini, quindi dai genitori adulti ai bambini, e raramente avvengano trasmissione da bambini a bambini piuttosto che da bambini ad adulti. Chiaramente resta da valutare meglio il terreno relativo all'adolescente, per il peso che l'adolescente può avere, per adolescente intendo dire il soggetto dai 12 anni in su, ma indubbiamente nelle prime epoche di vita e anche nel bambino di età scolare la situazione è proprio relativa alla trasmissione che avviene essenzialmente da adulti a bambini. Professoressa Esposito, un'indagine italiana in attesa di pubblicazione condotta su un campione di più di 2.000 studenti tra gli 11 e i 19 anni ha fotografato l'impatto psicofisico che la chiusura della scuola ha avuto su bambini e ragazzi. Ce ne vuole anticipare qualche dato? Sì, penso che questo dato sia molto interessante perché ha confrontato diverse realtà geografiche del nostro paese con diverse incidenze di infezione, dimostrando come angoscia e tristezza causati dal senso di solitudine si osservino nel 42% degli intervistati, soprattutto di sesso femminile, e anche nel 32,5% dei bambini di sesso maschile, quindi una percentuale davvero molto elevata. Ancora si nota come bambini e adolescenti nel periodo di lockdown abbiano riferito una mancanza di senso di comunità, proprio l'effetto assenza di scuola è stato quello percepito con maggior sofferenza, anche più dello stop delle attività sportive, e questo si è associato a un abbassamento del tono dell'umore che non appariva legato tanto alla paura del virus quanto al fatto di sentirsi tristi e isolati, di non avere contatti con i compagni. Oltre alla tristezza abbiamo riscontrato ansia e agitazione che si è osservata nel 40% degli intervistati, proprio per la separazione dai propri compagni, per il fatto che effettivamente messaggini piuttosto che comunicazioni via chat come si usano oggi non sono stati di pari soddisfazione all'incontro di persona. E oltre a questo, un elemento interessante, soprattutto in previsione della riapertura delle scuole, è che più del 50% delle femmine e il 44,7% dei maschi desidererebbe parlare di Covid con un medico. È un elemento che credo sia utile da considerare nei programmi formativi scolastici, proprio per tutto quello che riguarda prevenzione e salute in senso lato. E da oggi riprendono le nostre video interviste. Oggi, insieme alla dottoressa Viviana Ghizzardi, dottore in scienze motorie, parliamo di come e perché riprendere a fare attività sportiva. Vi aspetto, non mancate, trovate le nostre video interviste sulle pagine Facebook di Obiettivo Salute. Buona giornata. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.